e denari. Buongiorno a voi e benvenuti da Nicoletta Carbone a una puntata di Cuore e Denari. Inauguriamo questa prima settimana di agosto con un buon proposito: allenare mente e corpo. Abbiamo due esperti a nostra disposizione che ci aiuteranno passo dopo passo, giorno dopo giorno, a centrare questo obiettivo. Uno è già qua accanto a me, voglio subito presentarvelo: il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomansana ed esperto di sviluppo e potenziamento delle abilità mentali. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Fino a venerdì lei sarà insieme a noi per 5 puntate di Cuore Denari, in cui ci farà conoscere, sperimentare un metodo innovativo, si chiama 5A, che è un metodo che lei ha ideato e che promette di sviluppare le nostre abilità cognitive. Ci sarà da lavorare, professor Iannoccari. Lo faremo volentieri, immagino, vero Nicoletta? Ma certo, io sono pronta. Come possiamo attivare allora la nostra mente anche in questi giorni in cui molte persone hanno iniziato le vacanze, ma lei sa che i primi giorni di vacanza sono molto difficili, perché siamo stanchi, non riusciamo ancora ad entrare proprio con la testa nell'atmosfera vacanziera, ma c'è anche chi ci segue che è ancora al lavoro e la stanchezza dell'anno si fa particolarmente sentire. Quindi lei dovrà risvegliare le nostre menti, che comunque sono molto affaticate. Ha un bel compito. Sì. Lei sta al mio fianco, vero? Io sarò sempre qua al suo fianco. Intanto iniziamo a raccontare che cosa sono queste 5A. Ecco, l'idea delle 5A deriva dalle parole che compongono il sistema. Sono 5 parole che iniziano tutte per A. Abbiamo l'attivazione, cioè il momento in cui noi attiviamo il nostro cervello per farlo, per prepararlo a funzionare. Sia è che come siamo in quando vacanza, accendiamo il motore di una macchina? Proprio così. Okay. È come quando giriamo la chiave. La del chiave. Quadro. Esatto. Quindi per prepararlo sia per chi è in vacanza e sia anche per chi sta lavorando. Certo. Poi abbiamo l'attenzione focalizzata, quindi concentrarci su ciò che ci interessa ed evitando che la mente vada per conto suo. Molto difficile in questo periodo in cui tutti, no, tutto facciamo, si dilata. Bravo, tutto facciamo diventa, mille cose insieme, sì. Stiamo facendo una cosa, stiamo già pensando all'altra, quindi impareremo l'attenzione focalizzata, centrare ciò che ci interessa e lasciar perdere tutto il resto. Poi abbiamo l'assetto mentale, l'assetto come se fosse l'assetto di una macchina, dobbiamo sì. decidere in che tipo di lavoro dobbiamo svolgere, se è un tipo di lavoro in velocità oppure di comodo, in cui serve un assetto più comodo, confortevole. Poi abbiamo l'alternanza veloce tra i compiti, perché molte volte, come diceva lei prima, siamo chiamati a fare tante cose, anche quando siamo in vacanza. Sì, anche ecco. Quando siamo fermi. Anche quando siamo fermi. E quindi dobbiamo farlo nel migliore dei modi, evitando che qualcosa venga fatto male. Per cui gestire bene questo shift, questa alternanza tra i compiti è fondamentale. E l'ultimo poi è l'autopotenziamento, cioè come ciascuno di noi può attivarsi e può fare da trainer di se stesso per sviluppare sempre di più le proprie capacità. Non c'è il rischio che diventiamo troppo intelligenti, professor Iannoccari? Lo siamo già. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia. Ed ecco l'attivazione, è il primo dei 5 passi per avere la mente in forma, attivarla, svegliarla. Girare la chiave, come girare abbiamo detto. Girare la chiave, esattamente Nicoletta, proprio così. Pensiamo ad esempio quando ci svegliamo la mattina, alcune persone si svegliano e sono attive ancora prima che suoni la sveglia. Io sono così. Bene. Una allodola. Non fa suonare la sveglia? No. L'anticipa? L'anticipo, anzi non la metto, sono io la sveglia di me stessa. Altre invece sono altre un invece po' più rallentate, sì, fanno più fatica a carburare. Non riescono a tirarsi su dal letto nonostante la sveglia continui a suonare. Queste sono due differenze che vengono raccontate dai due profili, gufo e allodola, sì. Ma noi lavoreremo, anzi lei lavorerà, perché io l'accompagno, sia per il cervello delle allodole che per quello dei gufi. Sì, perché in effetti al di là della sveglia, dell'attivazione quando uno si sveglia al mattino, ma l'attivazione può avvenire anche al pomeriggio, la sera, quando noi abbiamo bisogno che il nostro motore centrale sia funzionante, sia al nostro servizio. Insomma, ci sono delle situazioni, delle condizioni, dei momenti nella giornata in cui il nostro cervello va un po' per conto suo, è un po' distratto, va per un'altra strada, non riusciamo a concentrarci, siamo un po' sonnolenti e avremo bisogno di un buon caffè. Anche il nostro cervello, secondo me, lo gradirebbe. Ecco, la sveglia, perché noi vogliamo svegliare il nostro cervello, mm-hmm. non solo al mattino, un caffè, vogliamo dare anche energia a questo risveglio, in qualunque momento della giornata si verifichi, non parliamo solamente naturalmente mm-hmm. del risveglio mattutino, ma proprio di dire al nostro cervello, oi, forza, dai, adesso devi essere Iannocari, al mio servizio, capito? Esattamente, proprio così. Bene, allora professore, in questa puntata noi dobbiamo essere concentrati, veloci, scattanti. Volendo fare un confronto con il fisico, di cui ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione, attivare la mente è un po' come risvegliare i muscoli, si inizia con una parte del corpo e via via si attivano tutti i distretti per renderli più agili, più flessibili, insomma pronti a fare il lavoro che devono fare. Ci aiuti un po' allora, professore Iannocari, a capire come possiamo risvegliare i nostri muscoli del cervello, chiamiamoli così. Bene, intanto ha centrato l'obiettivo, il principio dell'attivazione consiste proprio nel risveglio delle aree cerebrali, quindi abbiamo necessità di attivare le cosiddette aree associative in modo che diversi pezzi possano lavorare insieme, e anche il nostro sistema esecutivo centrale, che altro non è che il nostro regista che ci governa un po' il tutto. Poi quando ci si sveglia, o come diceva lei, in qualunque momento della giornata in cui abbiamo bisogno che la nostra mente e il nostro cervello siano ben funzionanti, è utile premere lo start. Cioè dobbiamo apprenderla, diventare consapevoli che possiamo anche noi dire qualche cosa al nostro cervello, sì. aiutarla a funzionare come si deve. Esatto, proprio come, proprio come decidiamo di girare la chiave, noi ad un certo punto possiamo decidere di attivare il nostro cervello. E ovviamente non abbiamo un tasto, lo stiamo cercando, glielo assicuro, stiamo facendo molti sforzi, sì, però, ma ancora però, non c'è. Insomma, datevi un po' da fare, sì. perché qua se no ci tocca far fatica. Non andremo neanche in ferie per cercarlo. Va bene, e quindi nell'attesa che ecco, voi che finalmente questo troviate tasto, questo tasto di accensione, che cosa possiamo, possiamo fare? Possiamo fare, molte persone per esempio usano fare dei rituali, per esempio mettere a posto la scrivania piuttosto che riordinare il tavolo dove si fa colazione. Oppure possiamo fare un po' di attività fisica, 10 minuti di stretching, una passeggiata, un po' quindi di bicicletta. Quindi quando ci sentiamo stanchi, non connessi, perché quando, tante volte abbiamo la sensazione che il nostro cervello sia altrove, allora possiamo richiamarlo all'ordine in qualche modo e quindi possiamo fare sicuramente l'attività fisica. Tante volte gli esperti, anche lei, hanno spiegato qua a Cuore Denari che ci sono, cioè, attivando i muscoli si risveglia anche il cervello. Sì. Oppure lei suggeriva di resettarla facendo dei rituali che in qualche modo ci preparano a lavorare meglio. Esatto, per esempio organizzare il proprio ambiente è un ottimo facilitatore dell'attivazione, o ancora ascoltare per esempio le notizie alla radio o leggere un giornale e al termine di ciascuna notizia fare una sintesi. Ecco, queste attività aiutano a riprendere in mano le fila delle nostre funzioni cognitive e, come se prendessimo le briglie, riprendiamo anche il controllo. Professor Iannocari, quindi oggi lavoriamo sull'attivazione. Col corpo è facile, con la mente sembra un pochino più complesso. La mente, ad esempio, ha un sotto e sopra? Ci fa capire, come, dato che lei è il nostro coach, come procederà per attivarci? Il nostro cervello, in effetti, un sotto e un sopra non è, no, non è ben lì. Chiaro se ce l'abbia, è lì, esatto. Ma se pensiamo al risveglio, ad esempio, ci sono delle fasi che noi attraversiamo per attivare un po' tutte le parti della nostra mente. Quando ci svegliamo dobbiamo subito orientarci, dobbiamo capire che è mattina, dobbiamo sapere dove siamo, che giorno della settimana è. Poi si passa alla capacità di focalizzare l'attenzione, per cui dobbiamo alzarci per andare verso la cucina, eccetera. E questo avviene grazie all'attività del nostro regista interno. che è un omino seduto proprio lì in prima fila, direi, dietro alla fronte. Infatti, quando noi abbiamo bisogno di destarci, molte volte ci diamo il colpetto sulla fronte, ecco, e svegliamo l'omino che deve guidarci. Perché è il regista, è quello che controlla tutto ciò che facciamo coscientemente, come svolgiamo le attività quotidiane e tanto altro ancora. Esatto. Una volta che queste attività sono attivate, allora si passa ad attivare gli altri distretti, per cui attiviamo le abilità di ragionamento e di calcolo. Queste attività sono posizionate nel lobo prefrontale, quindi un po' più verso la calottina. Verso la calottina. Poi abbiamo necessità di parlare, di attivare il linguaggio, quindi le aree poste nel lobo temporale sinistro, le aree di Broca e di Wernicke, quindi per iniziare ad articolare i nostri pensieri, eccetera. Certo, non tutti la mattina. Non tutti la mattina, ma anche nel corso della giornata ci sono tante volte, a chi non è capitato, di avere la parola sulla punta della lingua e proprio non viene. Stanchezza, mancanza di concentrazione, mancanza di attivazione, È appunto quello di cui parliamo oggi. E dato che adesso il nostro cervello abbiamo capito come si attiva, mettiamolo al lavoro. Lei ha da suggerirci un esercizio che ci aiuti un po' a metterli in moto, ma anche a capire quanto è un po' fuori allenamento? Ho pensato un esercizio, pensando a lei, Nicoletta. Pensando a me, quindi vedo già... un bel esercizio. Bene, provi. L'esercizio è il seguente, propongo quattro numeri. Ecco, segnate. Già io mi annebbio quando lei dice numeri. Va bene, provo. Numero uno. Numero uno. Due. Due. Quattro. E 5. Il 3 l'ha saltato? Il perché? 3 l'ho saltato, sì, perché così ricordiamo che un numero è stato saltato. Vede come sono attenta, già qualche neurone si muove. Lei, lei è veramente magico. Allora, 1, 2, 4 e 5. E 5. Okay. Bene, poi utilizziamo questi quattro numeri in modo mescolato, diciamo così, e svolgiamo tre operazioni. Un'addizione, una sottrazione e una moltiplicazione, in modo tale che dalla combinazione di questi quattro numeri otteniamo il numero 24. Che è Radio 24, che ospita Cuore Denari. Esatto. Lei è stato davvero gentile. E quanto tempo abbiamo? Quanto tempo abbiamo? Rientriamo dalle ferie il primo di settembre, vuoi troppo? No, va bene, potremmo farcela prima, ma sicuramente i nostri ascoltatori saranno rapidissimi e per trovare la sequenza e il risultato possono andare sulle pagine di Cuore Denari e troveranno naturalmente la soluzione di questo. Cos'è un rompicapo questo? Un allenamento, sì. Per il ragionamento e la flessibilità mentale. Professore Iannoccari, bisogna farlo, scherzi a parte, anche il tempo in cui eseguiamo gli esercizi conta? Sì, sì, il allora tempo... io, guardi, chiudo qua, la mia lezione è finita. Ma cioè, quanto 15 secondi, 10 secondi, cioè più veloci siamo e più il nostro cervello è vispo. È vispo, sì, il tempo è sempre una variabile nei compiti mentali, per cui meno tempo impieghiamo meglio è. Diciamo che vista la novità del compito possiamo dedicarci anche un po' di più, ecco, poi considerando che alcuni sono già in vacanza per cui i tempi si dilatano, ma anche chi ha lavoro, altri... Professor Iannoccari, ho una domanda per lei a proposito di queste operazioni e queste nostre lezioni di potenziamento delle funzioni cognitive. Lei sa bene che durante le vacanze sotto l'ombrellone oppure per chi magari è anche in campagna o in montagna, insomma, si fanno cruciverba, giochi, rebus, oltre a essere un piacevole passatempo, hanno degli effetti sul nostro cervello? Lo mantengono giovane, lo allenano? Come possiamo dare dei suggerimenti a chi ci sta ascoltando? Che magari è solito fare questi giochi che sono giochi estivi per alcuni, non solamente d'estate, ma insomma come possiamo farli rendere? Gli esercizi, i giochi tipo Sudoku, Rebus, ma anche il gioco degli scacchi, sì, eccetera, sono degli ottimi stimoli soprattutto per la concentrazione, per cui vanno benissimo per sviluppare e potenziare questa abilità che è fondamentale, per cui ogni volta che incontriamo in qualche pagina qualcuno di questi esercizi facciamolo perché fanno bene. Esatto, parlare di allenamento è una parola un po' grossa perché non c'è un training crescendo, ecco. Però, come faremo invece noi? Come faremo noi? E infatti il professor Iannoccari ha preparato degli esercizi, dei suggerimenti, diciamo, i compiti a casa, chiamiamoli così, perché una lezione che si rispetti ha poi dei compiti da fare a casa. Ci aiuta Alessandra De Luca con la sua bellissima voce che ce ne renderà particolarmente piacevoli, e il professor Iannoccari ci darà qualche ragione per farli. Primo esercizio: effettuare 3 calcoli a mente, un'addizione, una sottrazione e una moltiplicazione a nostra scelta. Unico avvertimento: i numeri devono essere a 2 cifre, ad esempio 37 più 15, 72 meno 13, tranne la moltiplicazione, che può avere un numero ad una cifra, 12 per 8. Professor Iannoccari, lei ha un debole per i numeri. Questo esercizio che cosa potenzia e a chi è particolarmente indicato? Innanzitutto dà la scintilla per accendere la combustione, per cui quando noi svolgiamo un'operazione matematica accendiamo le polveri. Riuscire ad effettuarla ci dà anche la soddisfazione di esserci riusciti, di aver raggiunto l'obiettivo. Questi giochetti numerici ci aiutano proprio ad iniziare a far funzionare l'attivazione, il meccanismo dell'attivazione. Secondo esercizio: trovare nell'ambiente circostante 5 oggetti che hanno una certa caratteristica. Ad esempio, un giorno posso cercare oggetti rotondi oppure rossi o grandi, eccetera. Possiamo farlo anche cercando fuori dalla finestra o mentre siamo fuori casa. Professor Iannoccari, mi dia una buona ragione per fare questo esercizio, per andare in giro a cercare cose tonde, quadrate, rosse. Questo serve per dirigere la nostra attenzione dove vogliamo ed evitare che la mente vada dove vuole lei. Dobbiamo fare in modo che l'ambiente venga osservato attentamente, e cercare degli oggetti nell'ambiente serve proprio per orientarci. Quindi focalizzare. Focalizzare, esatto. Terzo esercizio: prendere una parola qualsiasi e trovare 3 sinonimi e 2 contrari. Esempio: bello, attraente, piacevole, venusto, brutto, malfatto. Professore? In questo modo alleniamo il linguaggio, in particolare l'affluenza verbale, alleniamo il meccanismo del piglio e quindi evitiamo di avere quel fastidioso fenomeno della parola sulla punta della lingua. Quarto esercizio: richiamare alla mente gli impegni della giornata, un numero di telefono che abbiamo memorizzato di recente, il nome di 3 amici o colleghi. Memoria. Un po' di ginnastica anche di per ginnastica la memoria. Per la memoria, sì, in questo caso andiamo ad allenare il terzo meccanismo della memoria, che è quello del recupero delle informazioni dal nostro magazzino. Gli altri due, professor Iannoccari, sono l'attenzione, giusto? L'attenzione. E l'altro? Poi? E poi? Chissà se i nostri ascoltatori l'hanno, lei l'ha detto all'inizio della puntata, andate poi a cercare l'altra gamba della memoria, la mettiamo naturalmente sulla pagina del nostro programma. Siamo arrivati alla fine dei compiti, manca un esercizio, andiamo. Quinto esercizio: dare 3 risposte a domande bizzarre, ad esempio, come sarebbe il mondo se non esistessero i tetti? Oppure, come sarebbe se le auto andassero a sapone? Questo è l'esercizio che mi piace di più, non so se preoccuparmi, professor Iannoccari. Anzi, di tutt'altro, questo è l'esercizio che serve per stimolare la creatività. È il se, quando noi mettiamo un se davanti a qualcosa, attiviamo anche l'emisfero destro, per cui chiamiamo in causa l'emisfero destro a lavorare insieme al raziocinio, che è classicamente depositato nell'emisfero sinistro. La chiave di svolta è il se. Se. Se, come fosse se. Quando noi diciamo se, allora attiviamo quel mondo bellissimo che è la creatività. E se la lezione del professor Iannoccari vi è piaciuta, vi ricordo che domani alle 11 alleniamo un'altra A, professor Iannoccari, continuiamo il metodo delle 5 A, un nuovo passetto avanti. Nel frattempo segnalateci sulla nostra pagina di Facebook quali operazioni avete fatte, quali sinonimi contrari avete trovato e quali domande bizzarre avete inventato, e andate a vedere naturalmente anche la soluzione del gioco allenamento che ci ha proposto il professor Iannoccari. Professore, devo lasciarla, intanto li farà anche lei questi esercizi o... sempre e noi ci alleneremo tra poco con il dottor Franco Confalonieri, dopo la mente alleneremo i nostri muscoli, vi aspetto. Che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rubina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rubina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. E dopo aver allenato il nostro cervello impariamo a nutrirlo, sì, perché la corretta dieta aiuta il nostro cervello a mantenersi sano, giovane ed efficiente. Ci aiuta la professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione all'Università di Bologna, che è in linea con noi. Buongiorno professoressa Creglia. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. La professoressa Creglia è autrice di un libro che fa proprio a caso nostro, si intitola Nutrire il cervello, un libro da poco pubblicato, quindi con sottotitolo Come proteggerlo con i suggerimenti della nutraceutica. Voglio segnalarvi che tutti i proventi sono a favore del Centro Studi e Ricerche sul Coma della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, che è un centro finalizzato al recupero dei pazienti in stato vegetativo. Professoressa Creglia, allora, nutriamo il nostro cervello, nutriamo naturalmente con una dieta che gli faccia bene. Da che cosa si comincia? Cominciamo subito col dire che il cervello ha bisogno di zucchero, come dice un noto slogan. Però attenzione, questo non vuol dire che noi possiamo assumere liberamente tutti gli zuccheri che vogliamo, perché l'abuso comporta dei seri problemi. A sostegno di questa teoria c'è la scoperta relativamente recente che la più devastante patologia neurodegenerativa dell'età anziana, cioè la malattia di Alzheimer, è stata definita come diabete di tipo 3. Questo significa che per salvaguardare la nostra mente e non agevolare l'incidenza di patologie neurodegenerative, noi dobbiamo limitare il quantitativo di zuccheri semplici che non sono solo la nostra bustina di zucchero, il normale saccarosio, ma la troviamo nascosto nei cibi preconfezionati, nelle bibite e in tutto quello che il mercato ci mette a disposizione. Quindi adottiamo una dieta intelligente. Il nostro cervello ha bisogno di zucchero, ma ha bisogno dello zucchero sotto forma di glucosio, che noi riusciamo ad estrarre, a modificare e a metabolizzare da alimenti alternativi da quello che è lo semplice zucchero in bustina. Quindi, professoressa Creglia, occhio alle etichette, perché la nostra dieta intelligente, la dieta che fa bene il cervello, deve essere una dieta capace di selezionare gli alimenti giusti. Assolutamente sì, dieta intelligente vuol dire leggere ed essere informati. La legge ci assiste perché obbliga tutti i produttori di alimenti ad apporre su questo alimento un'etichetta nutrizionale completa. Leggiamo quanto zucchero c'è sotto forma di zuccheri semplici, la dicitura è proprio zuccheri semplici, e scegliere gli alimenti che hanno il minor livello possibile di questi zuccheri semplici, in quanto è proprio l'eccessivo tenore zuccherino e di conseguenza i livelli della glicemia ematica che possono concorrere ad alterare il funzionamento del nostro cervello invece che a proteggerlo. Professoressa Creglia, messaggio ricevuto, ci alleneremo, quindi occhio all'etichetta, scegliamo con la testa per fare bene al nostro cervello. Noi ci sentiamo domani, perché prendendo spunto dal libro che ha appena pubblicato Nutrire il cervello, lei ci racconterà e ci darà dei preziosi suggerimenti per mantenere il nostro cervello giovane e sano, cominciando dalla tavola. Grazie professoressa Creglia, a domani. Perfetto, grazie a voi, a domani. Cuore e denari. E siamo tornati di nuovo insieme, abbiamo salutato il dottor Iannoccari, ci siamo allenati troppo, il cervello che mi fuma, ma adesso lavoriamo sui nostri muscoli, sulle nostre articolazioni, perché anche loro hanno bisogno di essere tenute in esercizio, anche in vacanza, con un allenamento però che sappia un po' di originale, insomma un allenamento che unisca gli esercizi tradizionali con un pizzico di novità e un sapore per così dire vacanziero. Lo facciamo con un altro caro amico di Cuore Denari che ci ha tenuto compagnia molte volte durante l'inverno ed è stato anche uno dei coach del nostro reality Cuore Denari Expo per la categoria della coppia di conviventi senza figli, a cui ha suggerito una dieta molto gustosa, molto particolare, magari avremo modo di parlarne. Sono molto felice di avere qui al mio fianco, lo anticipo già, lo sarà per tutta la settimana, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno dottor Confalonieri, bentornato. Buongiorno, ben ritrovati tutti, è un piacere anche per me essere qui a accompagnarvi questa settimana di esercizi originali, diciamo così. Dottor Confalonieri, a proposito della nostra coppia di Cuore Denari Expo, sulle pagine del nostro programma naturalmente sono ancora a disposizione le ricette dei nostri cuochi e quindi si approfitta del tempo in vacanza per provare qualche ricettina un pochino sfiziosa. Come è andata a finire? Sono, nonostante una dieta molto ricca che senza alcuna rinuncia, hanno acquistato o riconquistato una linea da prova costume. Beh, diciamo che lui, che non aveva proprio una linea da prova costume o da matrimonio, anche perché sono passati dalla categoria conviventi alla categoria sposati, ecco, o almeno avevano questa intenzione. Poi è stato un po' un cupido lei. Esatto, aiutato al grande passo. Ho aiutato, lui è dimagrito, era molto contento e quant'altro. Lei, che peraltro era già in forma, diciamolo, si è mantenuta. È rimasta più o meno con lo stesso peso, però scoprendo, ed è una cosa altrettanto importante secondo me, che poteva mantenere il peso anche variando molto l'alimentazione e concedendosi una serie di piatti o di vizi cui prima non pensava neanche lontanamente. Quindi direi che siamo rimasti sia io che loro assolutamente soddisfatti. Allora, torniamo a noi, dottor Confalonieri. In questa settimana ci aspetta un percorso un po' particolare a cui siamo arrivate pensando che proprio come in cucina si possono utilizzare gli stessi alimenti, gli stessi prodotti, però cucinandoli in diverso modo, abbinandoli in modi alternativi per dare origine a delle ricette sempre nuove e originali. Anche l'attività fisica, i singoli sport, possono essere declinate secondo usi e modalità tutte differenti, alla scoperta di benefici e vantaggi che magari non avevamo considerato prima. Ed è proprio quello che vorremmo fare in questa settimana, in cui lei, dottor Confalonieri, sarà il nostro compagno di ombrellone, di camminate in montagna, anche insomma il nostro compagno di vacanze. Si possono fare vacanze anche in città. E ci aiuterà a vivere lo sport in un nuovo modo, direi, no? Come divertimento, ma scoprendo dello sport delle opportunità che non avevamo mai pensato. Certo, perché la sfida è proprio quella di coniugare tutto sommato quel numero di movimenti e di attività abbastanza limitate, che sicuramente sono garanzia di salute, perché come sappiamo non è che tutti gli sport per tutti siano garanzia di salute, coniugare queste poche attività in modo divertente, originale, vario, in modo che uno sappia di non farsi del male e di trarre il massimo beneficio possibile da questa scelta, che deve essere allo stesso tempo valida e positiva per il nostro corpo, ma anche per la nostra mente, per il nostro relax, per il nostro benessere globale, insomma. Allora, dottor Confalonieri, abbiamo deciso di dedicare questa nostra prima puntata al cammino, un'attività che, se ci pensiamo bene, è il gesto più comune della nostra vita. Siamo fatti per camminare, già che ci siamo messi sulle due gambe, tanto vale usarle con tutto quello, ecco, che il problema comporta, perché si stava, no? Si stava forse meglio. Ecco, questa affermazione quando è un po' audace, che siamo fatti per camminare. In effetti l'uomo nasce come quadrupede, quindi nasce per avanzare con quattro appoggi e poi l'evoluzione ci porta ad essere bipedi. Peraltro, già che l'abbiamo fatto. Ecco, non tutto il nostro organismo è perfettamente adattato al movimento bipede e quindi dobbiamo avere una serie di accortezze di cui magari avremo modo di parlare. Non perdere la voglia di camminare. Io, camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno. I pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo e non conosco pensiero così gravoso da non poter essere lasciato alle spalle con una camminata. Ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi malati. Perciò basta continuare a camminare e andrà tutto bene. Bruce Chatwin. Tutto andrà bene, così dice Bruce Chatwin, se continuiamo a camminare. Insomma, il più l'abbiamo fatto, no? Da quadrupedi siamo diventati bipedi, con tutte le cose, i rischi del caso, ma adesso ci tocca camminare. E a sottolineare i vantaggi e i benefici che si possono trarre da una camminata è anche l'OMS, che raccomanda ben 10.000 passi al giorno per contrastare la sedentarietà, tutti i problemi a essa correlata. 10.000 passi, chi dice 8.000? Quali sono i passi da fare, dottor Confalonieri? Ma io sarei assolutamente in linea con i 10.000 passi indicati dall'OMS, che tra l'altro sono anche il target posto da gran parte delle app che adesso troviamo anche sui nostri smartphone, che sono estremamente utili e divertenti per consentirci di controllare se effettivamente facciamo questi 10.000 passi, come li distribuiamo durante la giornata e quindi anche quali spazi abbiamo eventualmente per arrivare a questo traguardo. Quindi potremmo iniziare da qui, dai 10.000 passi, 8-10.000 almeno per iniziare ogni giorno? Sì, 10.000 passi ogni giorno e magari, visto che è estate, visto che abbiamo maggiore disponibilità di tempo, maggiore disponibilità di spazi, maggiore varietà, potremmo proprio alternare questo atto del camminare, che è il più naturale possibile, cambiando di giorno in giorno, di volta in volta, il terreno su cui lo facciamo, perché questa alternanza di terreni ci consente di sovraccaricare meno il nostro organismo, in particolare caviglia, ginocchia, anche schiena, che sono tutte le articolazioni che noi sovraccarichiamo il momento in cui camminiamo, e soprattutto di allenare il nostro piede facendogli recuperare quell'intelligenza motoria, quell'abitudine al passo, quell'abitudine ad adattarsi ai diversi terreni, alle diverse risposte che i terreni danno, che è fondamentale per un organo alla fine intelligente quasi come il cervello, che sono appunto i piedi. Quindi alterniamo le superfici nella stessa giornata o a giorni alterni? No, in linea di massima ritengo che la cosa migliore sia alternare le superfici a giorni alterni, nel senso che questo, da un punto di vista logistico, è molto più semplice da organizzare. Cioè, ad esempio, lei come fa? Mi scusi, dove va a appoggiare i suoi piedi? Beh, diciamo che le tre... Ci racconti, ci sveli qualche cosa del dietro le quinte del dottor Franco Confalonieri, perché ormai è il nostro compagno di camminata oggi, ma di attività sportiva, un compagno di vacanze. Ecco, allora diciamo che noi abbiamo tre superfici fondamentalmente su cui camminare, a parte le superfici rigide che sono i pavimenti, l'asfalto, quelle che troviamo quotidianamente. Se vogliamo variare rispetto a queste superfici, ne abbiamo fondamentalmente tre: lo sterrato, la sabbia e l'acqua, oltre all'erba ovviamente, che io abbinerei in questo momento allo sterrato, anche se è molto più morbido, ma è difficile anche trovare superfici in erba particolarmente morbide, e queste superfici hanno caratteristiche molto molto diverse. Personalmente, se uno al mare, l'ideale è proprio alternare il cammino sulla sabbia e il cammino sull'acqua molto molto bassa, perché qui non dobbiamo fare un cammino contro resistenza. Proprio, non proprio sull'acqua, perché... No, sull'acqua in pochi siamo capaci. Sì. Cioè, a me mi risulta che ci sia stato solo uno per adesso, però se lei mi dice che è capace, chapeau, eh? No, però probabilmente se mi impegno molto potrei anche farci. Bene, comunque per noi che siamo... Cioè, vuol dire camminare con il piede... No, però ecco, non fare quella camminata che costa anche fatica, avanzamento, con la quale teoricamente andiamo a allenare anche le cosce, i glutei, a riscolpirci e quant'altro. Fa proprio una camminata nell'acqua molto molto bassa, in cui l'attività che cambia è fondamentalmente quella del piede, che trova una superficie d'appoggio diversa, una sabbia molto morbida, una resistenza all'avanzamento, e quindi impara a camminare in un modo diverso. Quindi la sabbia e l'acqua per chi sta al mare, lo sterrato e l'erba per chi sta in montagna, al lago o in campagna, e quindi ha a disposizione queste due superfici tra loro relativamente diverse. Il pavimento della cucina, come noi che stiamo in città. Quello no, perché anche noi che stiamo in città, il pavimento e l'asfalto sono le superfici dove facciamo gran parte dei nostri passi quotidianamente tutto l'anno, perché alla fine noi 10.000 passi alla fine è relativamente facile raggiungerli, ma li raggiungiamo sul pavimento o sull'asfalto, e con le scarpe, poi torneremo penso anche su questo argomento, certo. Cioè sulla differenza tra camminare con le scarpe, con la tipologia di scarpe che modifica molto gli effetti del nostro camminare, questo è un discorso estremamente interessante, o camminare a piedi nudi. Quindi anche se stiamo in città dovremmo ritagliarci il tempo per camminare magari o sullo sterrato o sull'erba, che sono raggiungibili facilmente, basta andare in un parco, esatto, voilà. E anche chi sta in città lo può fare. Allora, piedi nudi con le scarpe, ma con le scarpe giuste. Attenzione a non camminare a lungo con l'infradito, perché lì poi sono dolori. Gli ortopedici e i fisioterapisti, i fisiatri hanno più volte lanciato questa raccomandazione, perché l'infradito è comodo, ma non per, naturalmente, il buon senso lo suggerisce, ma ci sono poi delle circostanze strane per cui uno si incammina. Ecco, l'infradito lasciatelo a casa per le camminate. Allora io direi, lasciate a casa l'infradito, lasciate a casa soprattutto l'abitudine di tanti adolescenti di camminare con le scarpe da ginnastica slacciate. Si è moltiplicato il numero di persone che soffrono di alluce valgo, quindi proprio di questo la spostamento. La famosa cipolla, che ecco. Perché camminando con la scarpa slacciata devono continuamente frenare lo scivolamento del piede in avanti e danno dei danni che poi si portano dietro tutta la vita. Camminare a piedi nudi, eccellente, sia per recuperare questo rapporto con la terra, che comunque ha un suo valore, è fondamentale se abbiamo dei bambini. I bambini abituiamoli su qualsiasi superficie, ma anche non tanto piccoli, fin verso gli 11-12 anni, cioè in tutta quella fase in cui andiamo a costruire la nostra intelligenza motoria, è fondamentale abituarci a camminare a piedi nudi. Nudi, punto, ma noi vogliamo continuare a camminare insieme, lo facciamo naturalmente dopo le informazioni sul traffico. Ci sono anche camminate che naturalmente aiutano un po' a sfilare la figura, se mai ce ne fosse bisogno. A tra poco. Cuore e denari. Mi fai stare bene, mi fai stare bene. Tornati in questa prima puntata di Cuore Denari versione estiva, che abbiamo pensato, realizzato e costruito proprio per cercare di farvi stare bene dal punto di vista della mente. Infatti ci stiamo allenando, lo faremo per tutta questa settimana con il dottor Iannoccari, e naturalmente vogliamo anche allenare il corpo, l'apparato muscolo-scheletrico. Lo facciamo in modo, cerchiamo almeno con il dottor Confalonieri, di farlo in modo un po' originale, e quindi le solite le nostre abitudini, l'attività sportiva che magari prediligiamo, fatta con un tocco di novità, proprio per renderla più efficace, perché no, più divertente. Siamo partiti un po' da quello che succede in cucina. Proviamo a utilizzare il prodotto. Tutti noi, quando mangiamo il melone, ad esempio, lo abbiniamo al prosciutto, oppure lo mettiamo nelle macedonie o lo mangiamo al cucchiaio. Invece ci sono degli altri modi per utilizzare il melone, certo. Così ci sono anche degli altri modi di intendere l'attività sportiva. Oggi siamo partiti dalla camminata. Il primo consiglio del dottor Confalonieri è alternate le superfici, quindi abbiamo anche suggerito di andare a piedi nudi, soprattutto per i bambini, in spiaggia, bambini e anche bambini un pochino grandicelli. Dottor Confalonieri. Sì, siamo ripartiti dal cammino perché è l'attività più semplice e vogliamo stare bene, come diceva la canzone, e quindi per stare bene e fare sport dobbiamo anche fare uno sport che sia facile da fare, perché sennò diventa una complicazione, diventa uno stress e diventa difficilissimo farlo anche per una settimana, 15 giorni in vacanza. Quindi il cammino come l'attività più semplice, però cercando di reinterpretarlo. Quindi se siamo al mare, alternare la sabbia e l'acqua molto bassa, ovviamente a piedi nudi. Chissà camminare sulle acque come il dottor Confalonieri si avventuri. Questa terza possibilità. E viceversa, se siamo in montagna o in campagna, alternare lo sterrato con le scarpe adatte. Abbiamo sconsigliato le infradito, le scarpe slacciate o addirittura piedi nudi sull'erba, come si diceva una volta, che è straordinario non solo per i bambini. Abbiamo anche raccomandato di far camminare tantissimo a piedi nudi i ragazzi almeno fino agli 11-12 anni, quando termina la costruzione dell'intelligenza motore, quindi anche la costruzione della capacità del piede di lavorare in modo intelligente. Abbiamo fissato a 10.000 i passi da fare in una giornata, minimi. Di vacanza. Se riuscite a farne qualcuno di più, tutto guadagnato, perché poi arriverete dalle vacanze anche più allenati, certo. Quindi arriverete a 20-25.000 passi in un batterbaleno, ma quando quasi. Mai? Allora, dottor Confalonieri, naturalmente c'è chi cammina anche per vedere dei risultati e quindi per perdere qualche chilo. È possibile? Non basta però camminare al passo delle vetrine, immagino, o i passi per andare a prendere un gelato. Ci vuole un ritmo differente? Ci vuole... Che cosa bisogna fare? Ma noi vogliamo essere originali quest'estate, no? Ok, allora Ale, giù di gelati. Giù di gelati, sì, anche poi magari facciamo come... Ma tutto sommato, perché lo shopping fatto in un certo modo, invece può essere proprio un'attività che favorisce il dimagramento. Dai, allora... Ma anche da un punto di vista scientifico fisiologico. Sicuramente. Ecco, direbbe Deborah. Nel senso che le ricerche più recenti ci dicono proprio che l'alternativa di un cammino, di un'attività fisica relativamente intensa con una pausa, ci consente di bruciare in modo selettivo i grassi durante la pausa, quando quindi ricostruiamo le nostre scorte energetiche. Allora, quindi, ho capito, bisogna andare a passo sostenuto fino tra una vetrina e l'altra. Esatto. Che abbiamo scelto. Si entra nel negozio, si acquista possibilmente... No, diventa lunga la pausa. Ecco. Io voglio farli risparmiare. Ah, bene. Avete presente quando incrociate due begli occhi che vi sorridono e il cuore vi si scioglie come una noce di burro su pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio. What's wrong with me? E dopo hai un tuffo al cuore quando ti rendi conto che... $320 per una muta da sub! $787 di biancheria intima! L'intimo è un diritto umano inalienabile. Quindi noi si fa proprio una selezione, e il discorso sembra scherzoso, ma ci sta dietro un fondamento scientifico importante. Un circuito. Facciamo proprio un circuito, scegliamo il quartiere, scegliamo la strada, decidiamo quali sono i negozi che ci interessano, ci spostiamo da un negozio all'altro a passo sostenuto, ci fermiamo un minuto circa per dare un'occhiata alla vetrina, vedere se effettivamente c'è qualcosa di interessante, e ci spostiamo al negozio successivo. 20-30 minuti di questa attività, intanto abbiamo un quadro di dove tornare ad acquistare poi con calma, e poi abbiamo fatto proprio un cammino finalizzato al dimagramento. Ovviamente lo stesso lo possiamo fare anche in montagna, fermandoci per la fotografia, per il panorama o per la pipì del bambino, piuttosto che al mare con delle pause ad hoc. Però questo lavoro intervallato è estremamente efficace per perdere peso ed è alla portata di tutti, perché se anche cammino abbastanza velocemente poi dopo 30-40 secondi mi fermo e quindi non vedo il problema. Ma quando lei dice a passo sostenuto, ecco, che cosa vuol dire? Vuol dire la solita avvertenza di parlare con, di riuscire a parlare con il compagno senza fare fatica, ma con un po' di fiatone, misuriamo le pulsazioni. Che cosa, un passo sostenuto è una cosa soggettiva oppure misurabile? No, il passo sostenuto è misurabile in termini di frequenza cardiaca. Molto semplicemente, se noi aumentiamo del 50% la nostra frequenza cardiaca a riposo, è il passo giusto. O un pochino di più in questo caso, perché poi ci sono le pause. Quindi a riposo c'ho 70, cammino a 105-110. Questo ci aiuta. Ci aiuta. O se no, l'idea appunto di riuscire a parlare senza il fiatone. Il fiatone è già un indice di sofferenza, quindi va prevenuto. O di riuscire a guardare le vetrine senza la vista che si annebbia, insomma, perché se no significa che a parte tutto c'è qualcosa che non va. Comunque, ecco. Mezz'oretta. In tutto, sì, non di più. E la cosa di alternare uno sforzo intenso a uno stop, questa alternanza ci consente di bruciare i grassi durante la pausa. Questo è valido non solo per il cammino, immagino, ma per tutte le attività. Infatti magari in questa settimana torneremo su questo argomento e lo svilupperemo anche. Poi naturalmente c'è il metodo tradizionale, che è quello di camminare lentamente per un tempo prolungato, però qui bisogna avere davvero a disposizione almeno 45-60 minuti, perché se faccio una camminata continua comincio a bruciare in modo selettivo i grassi soltanto dopo 25-30 minuti in cui ho bruciato gli zuccheri. Quindi allora faccio una camminata lunga e so che dal 25-30 minuto in poi sto consumando soprattutto i grassi. Quindi abbiamo identificato due profili di vacanziere. Esattamente. Avete poco tempo? Allora fate il circuito, quello che abbiamo chiamato circuito vetrine, ma dove ciascuno di noi può mettere degli stop. Può essere un circuito vetrine, un circuito paesaggio, un circuito bambini, perché noi possiamo giocare col bambino, fare delle sfide, 15-20 secondi col bambino piccolo che arriva prima a quel traguardo, poi ci fermiamo, giochiamo col bambino, chiacchieriamo, ci poniamo l'obiettivo che è la radura, l'albero, piuttosto che il bagno che sta a 50 metri più avanti. C'è un sacco di spazio. Ho capito che la pipì per lei è un problema. Non la pipì. Del bambino. Lo sto un po' psicoteora, non lo so. È vero, ha ragione, bypassiamo questo problema. Però è per rendere pratica la cosa, perché alla fine appunto ci vuole fantasia. Bravo. Allora, se io sono in spiaggia e col bambino dico facciamo la nostra camminata da un bagno all'altro, poniamo la classica spiaggia italiana, e noi passiamo proprio da un bagno all'altro camminando velocemente, correndo il bambino, facciamo a chi arriva prima, poi vince sempre il bambino, così aumentiamo anche l'autostima del bambino, e poi ci fermiamo in quel bagno e stiamo un pochino a chiacchierare e a fare le nostre osservazioni. Poi si va al bagno successivo. Benissimo, è un gioco che facciamo tutte le mattine, che fa stare bene noi, che fa stare bene il bambino che cammina o corre a piedi nudi e che ci consente pure di dimagrire. Dai, invece se chi vuole ha più tempo da dedicare a questa attività, un'oretta di cammino lento, dopo il 25esimo minuto, tac! Magicamente cominciamo a bruciare grassi. Mi piace. Allora, questo per chi vuole dimagrire, ma c'è chi utilizza il cammino per allenarsi e quindi per prepararsi ad avere delle performance migliori nell'attività che predilige. Penso a chi va in bicicletta, penso ai runner. Sicuramente è l'attività di base, quindi è quella da cui partiamo proprio all'inizio di una preparazione o soprattutto all'inizio di un recupero. Per esempio, siamo stati a lungo fermi, siamo in sovrappeso, ripartiamo dal cammino. Ovviamente qui dobbiamo porci come obiettivo quello di aumentare gradualmente, e lei è il dottor gradualità, esatto, gradualmente la quantità di allenamento tutti i giorni, quindi questo è fondamentale. Quindi noi stabiliamo una certa intensità, in questo caso è un po' più elevata dell'intensità di cui parlavamo prima, quindi tendenzialmente, sempre per banalizzare, arriviamo quasi a raddoppiare la frequenza cardiaca a riposo, e il primo giorno lavoriamo o camminiamo 15-20 minuti e poi incrementiamo circa del 20-30% la durata del nostro allenamento tutte le volte. Ok, allora dottor Confalonieri, abbiamo fin qui visto tutti i benefici di questa attività, vi saranno anche delle controindicazioni, poche ma ci sono, vogliamo segnalarle prima di passare alle tre indicazioni di base per il nostro allenamento. Allora, controindicazioni fondamentali: obesità, ovviamente, perché l'obeso se deve camminare in acqua, ma ci arriveremo magari durante la settimana. Problematiche d'anca, che sono sempre più diffuse, quindi l'artrosi d'anca è una controindicazione assoluta al cammino, e come controindicazioni minori, problematica alla colonna e al ginocchio. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, oh yeah. Allora, arriviamo a chiudere questa prima giornata di allenamento con tre indicazioni di base. Regola numero uno, dottor Confalonieri. Regola numero uno, scegliamo l'orario e il terreno migliore per camminare. Quindi l'orario in cui ci viene facile farlo e il terreno, variamolo tutte le volte. Regola numero due. Non camminiamo mai senza aver mangiato in modo adeguato prima. È finita così la regola numero due? Sì. Tutti a tavola? È molto pericoloso camminare avendo fame. E la regola numero tre? Fermiamoci nel momento in cui sentiamo un minimo dolore a livello articolare. Il dolore muscolare tutto sommato non è pericoloso, il dolore articolare è pericoloso. Regola numero 4, domani vi vogliamo qui alle 11 per allenare la mente con il dottor Iannocari e naturalmente anche i muscoli e le articolazioni con il dottor Confalonieri, che tornerà a trovarci. Dottor Confalonieri. Certamente, a domani, a risentirci con tutti.